Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Sale ancora la disoccupazione, il terzo aumento consecutivo, ora è al 6,1%, per la prima volta a calare l'occupazione maschile. Intanto tiene il risparmio delle famiglie italiane, ma cala il portafoglio a disposizione, lo dice Banca Italia. Imprenditore Romeo davanti ai giudici napoletani, ieri sera le dichiarazioni spontanee di Francesco Rutelli. Il comune non sarà commissariato, dice intanto il governo. Sarà sciolto invece quello di Pescara il prossimo 5 gennaio, mentre la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per l'onorevole Margiotta nella bufera per l'inchiesta in Basilicata. Cancellate dal Consiglio dei Ministri 29.000 leggi inutili. Mantenerne anche una sola costa fino a 2.000 euro all'anno. Partirà a luglio invece la class action, tutto rinviato di 6 mesi. Prime condanne per il genocidio in Ruanda. Il Tribunale Penale Internazionale ha riconosciuto i colpevoli per lo sterminio di 500 Tutsi nell'aprile 94. Sotto indagine anche il presidente del Siena per evasione. Sequestrato il teatro romano Ambra Iovinelli. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, disoccupazione in aumento e risparmio delle famiglie che tiene nonostante la crisi, dicevamo nei titoli. Sono i primi effetti reali della recessione, quelli già previsti dalle scorse settimane da studi e rapporti. Adesso arrivano gli indicatori reali. Ne parleremo tra poco, più avanti avremo occasione di approfondirlo nel corso di Extra Large. Prima però torniamo a Napoli, perché dopo gli arresti oggi cominciano gli interrogatori dei protagonisti. Appoggio reale davanti ai giudici c'è in questi minuti Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato ieri e attorno a cui ruota l'inchiesta. E allora a Napoli andiamo da Enzo Danna. Buongiorno, il primo a comparire davanti al GIP è stato questa mattina l'imprenditore Alfredo Romeo, come avete detto, il personaggio chiave attorno al quale ruota la vicenda dell'appalto sul Global Service. Romeo è stato interrogato nel carcere di Poggio Reale, dove si trova da ieri mattina. Entro sabato saranno ascoltati anche gli altri 12 indagati agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta, tra loro i due assessori della giunta Iervolino, già sospesi, Di Mezza e Laudadio, e gli ex assessori Cardillo e Gambale. Le accuse, le ricordiamo, a vario titolo vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla turbativa degli appalti, all'abuso d'ufficio e corruzione. Nelle intercettazioni compaiono i nomi dei parlamentari Italo Bocchino e Renzo Lusetti, i quali si sono già dichiarati estranei. Nei verbali dell'ordinanza dei magistrati di Napoli alcuni indagati farebbero riferimento anche a Francesco Rutelli, il quale si è recato subito in procura ieri a tarda sera e ha reso dichiarazioni spontanee per chiarire punto per punto la sua assoluta estraneità alla vicenda in questione. Tutte le parole pronunciate nelle telefonate intercettate sul mio conto, ha detto Rutelli, sono totalmente prive di fondamento. E per il momento è tutto da Napoli, vi restituisco la linea. E più avanti vi faremo ascoltare anche alcuni stralci proprio delle intercettazioni contenute nelle carte dei magistrati. Grazie intanto ad Enzo Danna. Ma c'è una cosa che ci incuriosisce. Sì, restiamo a Napoli perché siamo andati a vedere come la Romeo gestiva effettivamente il patrimonio immobiliare del comune di Napoli. Al di là delle tangenti, funzionava questa gestione? Allora lo chiediamo a Raffaella Calandra. Che cosa hai scoperto in queste ore a Napoli, Raffaella? Vi racconto che cosa ho visto. Una rete per impedire la caduta di calcinacci dalla facciata di un palazzo storico, pannelli pericolanti negli edifici delle periferie, spesso marci per le infiltrazioni e avvallamenti stradali che diventano voragini nel sottosuolo tufaceo della città. Non solo le chiavi dunque, come scrivono i magistrati, ma l'intera città era nelle mani della Romeo, titolare della manutenzione dell'intero e immenso patrimonio immobiliare di Napoli, in cui in questo momento c'è una manifestazione di cui forse sentite gli echi musicali. Ebbene, oltre al danno degli appalti truccati, la beffa, commenta oggi la gente, la beffa di palazzi storici come Palazzo Maddaloni nella Spacca Napoli, mai ristrutturato e coperto per caduta sassi dopo che tutte le statue erano state rubate, o ancora la beffa di muri scrossati, gronfi di pioggia o delle scale senza ringhiera, per non parlare di cumuli di sporcizia degli scantinati dell'edilizia popolare e periferica, la cui manutenzione era sempre nelle mani della Romeo, da Taverna del Ferro a Pianura fino a nord verso Chiaiano. Qui gli inquilini lamentano una manutenzione inesistente studenti e per questo in molti non pagano il canone. Topi e Monnezza la fanno da padrona nei prefabbricati periferici, ma anche in qualche palazzo o chiesa chiusa del cuore antico, dove le strade senza manutenzione in giorni di periferia così diventano quasi lagune. E Napoli oggi rassegnata vive tutto questo come l'ultimo tradimento, dopo lo scuorno della Monnezza, l'abbandono della città, dove questo pomeriggio, proprio di fronte all'hotel a 5 stelle sotto sequestro della Romeo, hotel i cui inviti all'inaugurazione, tra parentesi, portano il logo della società Reti di Claudio Velardi, l'assessore d'Alemiano mandato appunto qui in città, qui appunto dicevamo il sindaco inaugurerà la nave fantasia, la nave più grande, la nave crociera, alta quasi quanto il maschio Angioino. E insomma tutto va avanti. Grazie allora alla nostra Raffaella Calandra. E intanto Laura Viggiano. Restiamo a Napoli perché la nostra Laura Viggiano ha raccolto i commenti di qualche passante. Sentiamo che cosa ne pensano i napoletani di tutto questo. Sono disgustato e vergognato. Qua ci dovrebbe essere tutta la città di Napoli qua giù a chiedere le dimissioni di questi due farabutti. Chi sono? Bassolino in primis e la Iervolino che è un'inetta. Vabbè, è un'inetta. Se fossi al posto del sindaco di Napoli già mi sarei dimesso solamente ascoltando le voci del popolo che chiedono a viva voce le dimissioni non solo del sindaco di Napoli ma anche del presidente Bassolino, anche del presidente della provincia di Palma, anche degli assessori e anche di coloro che comunque ingiustamente coprono delle poltrone e non vogliono lasciare, ripeto, assolutamente queste poltrone. La protesta davanti al comune di Napoli si chiede un processo per Bassolino in particolare, perché? Perché la legge deve essere uguale per tutti e ci siamo scocciati di avere gli intoccabili nel nostro paese. Un gruppo di Facebook, ragazzi napoletani che chiedono le dimissioni o comunque un processo a Bassolino e anche le dimissioni da Iervolino? Beh sì, ma Bassolino e Iervolino sono dei simboli di mala gestione della Campania, quindi diciamo sono i capri espiatori e poi tra parentesi basta, siamo all'osso, non ce la facciamo proprio più. E Iervolino, Bassolino, notizia dell'ultima ora, proprio in questi minuti si stanno incontrando il sindaco di Napoli, Rosa Iusso Iervolino, insieme a Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale, e il governatore della Campania, Antonio Bassolino, un incontro, dicono entrambi, per approfondire la situazione. Andiamo a vedere come la satira, le vignette sui giornali affrontano questo argomento. Vauro, sul Manifesto, il titolo è PD. E c'è insomma un infermiere davanti all'obitorio che dice: Veltroni dice che quello non è il suo partito. Come risponde l'altro? Si rifiuta di riconoscere la salma. LK sulla Repubblica. Pare che si stia riavviando il dialogo. Al momento siamo agli appalti condivisi. E intanto la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di arresti domiciliari che riguarda l'onorevole Salvatore Margiotta del Partito Democratico, come invece avevano chiesto i magistrati di Potenza per l'inchiesta sulle tangenti agli appalti per l'estrazione del petrolio in Basilicata. Hanno detto no all'autorizzazione tutti i gruppi parlamentari ad eccezione dell'Italia dei Valori e domani ci sarà il voto definitivo. E nella bufera finisce questa mattina anche il presidente del Siena Calcio, l'immobiliarista Giuseppe Lombardi Stronati, indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma su operazioni immobiliari illecite. Il presidente del Siena è accusato tra l'altro di appropriazione indebita, di false fatture e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma ha accertato una distrazione da diverse società immobiliari di 194 milioni di euro utilizzati per acquistare beni immobili e mobili. Tra ciò che è stato sequestrato anche lo storico teatro romano Ambra Iovinelli. E in questo slalom di notizie di cronaca giudiziaria che ha davvero dell'incredibile, c'è da dire anche che sarà sciolto il comune di Pescara e qui siamo ad altre inchieste. La decisione questa mattina è arrivata nel Consiglio dei Ministri, dove sono arrivate anche altre notizie. Facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Partiamo proprio dalla cronaca giudiziaria e da quanto comunicato in conferenza stampa dal ministro dell'Interno Maroni. Il prossimo 5 gennaio, ha detto Maroni, sarà sciolto il comune di Pescara in seguito all'arresto del sindaco. Situazione diversa ma comunque tenuta sotto controllo quella di Napoli. Ascoltiamo allora su questo il ministro dell'Interno. Seguiamo con grande attenzione lo svolgimento di queste attività e anche con preoccupazione per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi di legge previsti dalla legge appunto per le amministrazioni comunali, ma non possiamo intervenire e non interverremo perché la legge non ce lo consente. Monitoriamo la situazione e seguiamo con grande attenzione, d'intesa con il prefetto di Napoli, le vicende che sono accadute. Maroni ha inoltre che il 6-7 giugno prossimi vi sarà l'Election Day, che di fatto accorperà amministrative ed elezioni europee. Altro capitolo, la semplificazione legislativa, un decreto presentato dal ministro Calderoli. Ecco Vincenzo, 29.000 leggi cancellate, giusto? Sì, è proprio così, 29.000 leggi che vanno ad aggiungersi ad altre 3.000 soppresse già a giugno, prima dell'estate, con un altro decreto presentato sempre dal ministro Calderoli. È un bel risparmio, ha detto questa mattina, per le casse dello Stato. Assolutamente. Vi sono poi altri provvedimenti varati dalla riunione dell'esecutivo, via libera al decreto mille proroghe ed anche ai regolamenti attuativi del piano programmatico della scuola, che interessano elementari e medie dal 2009 e le superiori dal 1 settembre 2010. Sì, di Palazzo Chigi poi al rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Infine la cosiddetta class action, la misura slitta di altri 6 mesi. L'azione collettiva doveva partire, lo ricordiamo, il 1 gennaio 2009. E quindi si partirà a luglio, grazie a Vincenzo Miglietta. E adesso invece parliamo, si citava il ministro Gelmini, parliamo di ricerca. In Italia il tema spesso diventa quello della fuga dei cervelli. Invece questa mattina l'Enea ha premiato le eccellenze italiane nella ricerca e insomma sono venute fuori anche delle altre cose. Paola Nania, cosa? Buongiorno. Sì, buongiorno. Effettivamente noi parliamo spesso di ricerca italiana per condannare la fuga, per esempio, all'estero di menti brillanti, puntare il dito contro una precarietà estrema, stipendi da fame. Oggi invece dall'Enea, che è l'ente pubblico per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, è arrivato un messaggio decisamente diverso. Con il primo premio per le eccellenze italiane 2008 si parla infatti di risorse vivaci e di una ricerca migliore di quanto venga in genere dipinta. Questo almeno in il pensiero di Giuseppe Roma, presidente di un altro istituto di ricerca che è il CENSI. Sentiamolo. Noi sottovalutiamo quanto si fa di ricerca sia in campo pubblico sia in campo imprenditoriale. Noi abbiamo realizzato nelle imprese italiane con meno di 20 addetti, abbiamo individuato una spesa per la ricerca di almeno 2 miliardi di euro l'anno, per cui il caso eclatante del nostro ricercatore che non ha trovato spazio per il nepotismo di un professore universitario eccetera va sui giornali. Magari quello che scopriamo anche in Italia ci va poco, lo conoscono di più all'estero. Ripeto, questo ragionamento che dobbiamo fare sono i numeri, la bilancia tecnologica italiana è inattivo, cioè noi esportiamo ricerca. E da Roma è tutto. 13:18 minuti e 40 secondi, GR24 Extra Large. La crisi si fa sentire sull'occupazione. Per la prima volta dal 97 cala quella maschile, meno 0,2% nel terzo trimestre di quest'anno rispetto al precedente. A questo punto il tasso di disoccupazione sale al 6,1%, ma i dati indicano anche che aumenta l'offerta di lavoro da parte delle imprese. Mario Albissini, responsabile di ricerca sull'occupazione dell'Istat. Per il terzo trimestre consecutivo aumenta la disoccupazione, sia in termini di livello, cioè di numero dei disoccupati, sia in termini di tasso di disoccupazione. Dall'altra parte, il ritmo di crescita dell'occupazione rallenta in modo sostenuto. Siamo passati... Va avanti l'inchiesta napoletana. Francesco Rutelli si è recato ieri sera in procura per rendere dichiarazioni spontanee. Il suo nome compare in stralci di verbali in cui alcuni indagati farebbero riferimento a lui, e questa mattina nel carcere di Poggioreale l'interrogatorio dell'imprenditore Romeo. Non sarà commissariato il comune di Napoli, sarà sciolto invece quello di Pescara. Così ha deciso il Consiglio dei Ministri, mentre la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Salvatore Margiotta del PD. Arresti chiesti dai magistrati di Potenza. Hanno detto no all'autorizzazione tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione dell'Italia dei Valori. Prime condanne per il genocidio in Ruanda. Il Tribunale Penale Internazionale ha condannato a 20 anni di carcere il cognato dell'ex presidente Habyarimana, riconosciuto colpevole di genocidio e sterminio di 1500 Tutsi nell'aprile 94. Ergastolo per il colonnello Bagosora. Slitta di 6 mesi la class action, tutto rinviato, ha detto il Consiglio dei Ministri. Cancellate intanto 29.000 leggi inutili, come proposto dal ministro Calderoli. Mantenere una legge inutile costa fino a 2.000 euro l'anno. E sarà election day per le elezioni amministrative e quelle europee in primavera. Il ministro dell'Interno Maroni voterà il sabato pomeriggio 6 giugno e la domenica tutto il giorno 7 giugno, sia per le elezioni amministrative che per le elezioni europee. Un malore per la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Si è sentita male durante un convegno alla Farnesina dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua. È stata trasferita all'ospedale Gemelli per accertamenti. E torniamo a Napoli. Come promesso, abbiamo scelto alcuni brani delle intercettazioni riportate nell'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale del Capoluogo Partenopeo accoglie l'applicazione delle misure cautelari. Nelle intercettazioni emerge soprattutto la capillarità e anche la forza di tutta quella rete di relazioni che gli inquirenti hanno definito il sistema Romeo. E allora, nella prima intercettazione che vi proponiamo, che risale al 5 marzo 2007, quindi oltre un anno fa, le nostre voci interpretano l'imprenditore Alfredo Romeo e l'allora assessore a istruzione, legalità e trasparenza al Comune di Napoli, Giuseppe Gambale. Gambale, sentirete, riferisce a Romeo sull'andamento di un progetto relativo alle scuole di Napoli e dice di aver parlato con il sindaco Rosa Russo Iervolino. Sentite. Io ho parlato col sindaco. Lo sai che lei è molto contenta. Io sono stato un po' criptico. Lei davanti mi ha detto che poteva essere un modello che noi possiamo affidare per tutto il decentramento. Capito? Ma lei non ha capito che c'è degli assessori intelligenti. Ma quella è scema completa, non si rende conto. No, ma tu tienila sempre, non ti far entusiasmare dal... Lo so, figurati. Magari gli piace il giocattolo, lo metti in mano a quello scemo che tiene a fianco. Non ne parliamo. E allora coinvolgiamo il segretario del partito regionale della Campania, del Partito Democratico della Campania, Tino Iannuzzi. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, Iannuzzi. Molti osservatori hanno detto, insomma, giornalisti, osservatori, commentatori, anche i magistrati, insomma, che un certo tipo di corruzione a Napoli era visibile da molto tempo. Lei tutto questo terremoto, che riguarda anche direttamente un po' membri del suo partito, se l'aspettava? Ma oramai erano giorni, se non settimane, che sui mezzi di informazione già rimbalzavano notizie e informazioni su questa inchiesta. Il contesto che si delinea alla luce degli atti che sinora si è potuto acquisire è sicuramente un contesto inquietante che suscita grande preoccupazione e che impone una reazione molto forte ed impegnativa. Da questo punto di vista, nella fiducia dell'operato della magistratura e con la richiesta francamente anche di procedere con la massima sollecitudine alla definizione delle indagini, perché tutte le risposte della giustizia sono esemplari e efficaci quando sono immediate e tempestive e celeri, e con rispetto ovviamente dei principi costituzionali in relazione alle persone indagate fino a condanna definitiva, io penso che la politica e le istituzioni hanno il dovere di allontanare le persone che hanno ombre sui loro comportamenti per evitare che queste ombre si riverbino negativamente sulle istituzioni. Ecco perché già nella giornata di ieri, come segretario regionale, io ho ritenuto doveroso adottare immediati provvedimenti di sospensione dalla vita di partito di tutte le persone coinvolte fin quando non ci sarà l'accertamento delle indagini. Ora si attende una grande risposta di profondo e radicale da parte del sindaco della città, Iervolino. E quindi lei dalla Iervolino cosa vorrebbe? Quello che con Walter Veltroni abbiamo discusso e definito ieri sera. Da queste vicende emerge la integrità personale e morale del sindaco Iervolino, che è una storia importante da tutti conosciuta, però questa storia deve essere il motore di un grande rinnovamento. E quindi dimissioni o no? Radicale nell'aspetto di giunta, nei metodi di governo e anche nel porre questioni di merito precise e chiare che servono alla città e ai napoletani e che si dicono e si realizzano. Quindi da questo punto di vista un'innovazione molto estesa, molto profonda, totale delle compagini di governo. Quindi un rimpasto di governo, ma non dimissioni. una innovazione radicale della giunta. Il sindaco ha il compito, nell'esercizio della sua autonomia e della sua responsabilità rispetto a tutti i partiti, di rinnovare la giunta puntando su un grande livello di qualità e di eccellenza, su persone che per il loro volto, per i loro comportamenti, ma anche per la loro esperienza e capacità amministrative, siano di per sé un segnale di affidabilità, di autorevolezza e di limpidezza. Questo è indispensabile per ricostruire quel rapporto di fiducia con la città che indubbiamente è interrotto. Ci vorrà qualche ora, qualche giorno o di più, Flash, Iannuzzi? Io spero che occorra un lasso temporale il più possibile ristretto. Insomma, qualche prima giorno, si fa, meglio è, mi sembra. Sì. Scusi, non ho capito. No, dico, secondo lei prima si fa, meglio è a questo punto, mi sembra questo il suo pensiero. Non c'è dubbio, in questo caso la tempestività delle decisioni, quando è vita poi alla capacità di scegliere le persone giuste, è un grande segnale che si dà alla pubblica opinione, cioè si dà la consapevolezza che una stagione chiusa se ne deve aprire una nuova e lo si dà immediatamente con determinazione. Benissimo, grazie allora al segretario del PD Campano Tino Iannuzzi per essere stato con noi. Dalla Campania andiamo in Piemonte. Non nevica più in queste ore in cui molte regioni è tornato il sole, ma dopo i giorni scorsi le capo della Protezione Civile Bertolaso ha lanciato il rischio valanghe e i sindaci però non ci stanno. Guido Bertolaso lo ha detto ieri a Torino in un vertice straordinario. Bisogna salvaguardare le vite umane anche a rischio di scelte impopolari. E il provvedimento, per ora soltanto annunciato dal capo della Protezione Civile, di chiudere in pratica le valli piemontesi agli sciatori, ha subito avuto l'effetto esplosivo previsto. Dopo le nevicate senza precedenti dei giorni scorsi e l'improvviso innalzamento della temperatura, il pericolo valanghe è altissimo e l'attenzione è tutta sulle località innevate. Per i sindaci interessati, però, non si può generalizzare l'allarme all'intere province di Torino e Cuneo. Roberto Serra, primo cittadino di Cesana. È vero, c'è un pericolo generalizzato di valanghe, ma se uno va nei posti dove vengono le valanghe, in questo contesto ci saranno certe aree che avremo certe precauzioni, per cui si terranno chiuse, ma altre, secondo me, i due terzi degli impianti sono tranquillamente agibili e percorribili. E se i comuni apriranno le piste per il weekend prenatalizio, l'unico ostacolo, in attesa di ordini concreti dalla Protezione Civile, può arrivare dalla chiusura delle strade provinciali, dove finora c'è solo l'invito a non mettersi in viaggio, fatta eccezione per le zone dove la circolazione è impraticabile. Il sindaco di Sestriere, Andrea Colarelli. Oggi gli impianti sono aperti a Sestriere, c'è gente che sta sciando in tutta sicurezza. Speriamo che tutto ciò si risolva più presto e non comprometta una stagione che fortunatamente è partita con un bellissimo innevamento. Oggi e da ieri, già che c'è il sole, penso che sia tutto pronto per gestire una stagione turistica sicuramente ottima. Marco Lignana, GR24, il Sole 24 Ore. E ora parliamo di cinema, la storia di tre famiglie che partono per le vacanze, poi la vicenda di un parroco, la fuga invece dei quadri di una pinacoteca e le disavventure di un marito che non riesce ad avere figli. Il Cosmo sul Comone, il cinema da domani. Aldo, Giovanni e Giacomo tornano alla tradizione dei film a episodi e li ha intervistati per noi Marta Cagnola. Quando si pensa a quei film si pensa ai mostri, cioè quei personaggi particolari che hanno raccontato uno spaccato d'Italia esagerata, precisa. Noi abbiamo fatto il primo passo forse verso quel tipo di cinema. La vera felicità è nel saper dare e nel saper prendere. Ma non è giusto, maestro, io non ho preso niente. Adesso ti accontento. Sei soddisfatto? Abbastanza. Io volevo sapere come scrivete, come avete scritto questi episodi, visto male che loro due. Tutte le correzioni le faccio io. Ma che scrivi? Che scrivi? No, è vero che lui deve pagare la cena a tutti a casa sua? No, non esageriamo. Lui mette a disposizione Giovanni l'appartamento. Perché? Giovanni mette a disposizione appartamento. Diciamola tutta, mette a disposizione un locale insalubre, no? Non lo diciamo per la privacy, abita in un quartiere che non si parcheggia. Io devo parcheggiare. Prendiamo continuamente multe. Allora, parto da Monza, faccio 200 metri, parcheggio e la faccio a piedi fino a, perché non si può assolutamente. In più, siccome lui appena entra in casa ti guarda come la faccio, come per dire, vieni a casa mia da anni e non porti niente, portiamo gelati e robe varie. Siamo noi che le cose a casa sua sono cose che non riesci a smaltire e sono lì dal 48, quanto non lo so. Costano veramente di riscaldamento. Da quant'è che non ti confesso? Beh, c'era ancora Pertini. Abbiamo vinto i mondiali 2006. 82. Come passa il tempo? È un periodo in cui la gente ha bisogno di ridere, però sta andando un po' meno al cinema, forse perché ha meno soldi da spendere. Come vedete questa uscita in questo periodo? Da dove li ha estrapolati? Non ci risultano, perché la Fed ha appena dichiarato che il denaro non costerà nulla, per cui sarà possibilissimo chiedere dei prestiti gratis, in America per venire a vedere dei film in Italia. Dunque, la benzina è diminuita, chi dice che da domani non diminuisce anche il cinema? Certo, chi può dirlo? Speriamo di no. Volevamo fare un saluto di Buon Natale. Ma a nessuno tutti. Te l'ha chiesto, ti devi allargare? Te lo chiedono, che è anche meglio non farlo, perché non la senti? Auguri a tutti. Auguri. 13:37, tutte le notizie di oggi extra large. Sale ancora la disoccupazione, il terzo aumento consecutivo, ora è al 6,1%, ha comunicato questa mattina l'Istat. Per la prima volta dal 97 a calare è l'occupazione maschile. Va avanti l'inchiesta napoletana, Francesco Rutelli ieri sera in procura per dichiarazioni spontanee. Questa mattina nel carcere di Poggio Reale, interrogatorio dell'imprenditore Romeo. Intanto la giunta alle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Salvatore Margiotta, chiesta dai magistrati di Potenza. Non sarà commissariato il Comune di Napoli, sarà sciolto invece quello di Pescara, il ministro dell'Interno Maroni. E non interverremo perché la legge non ce lo consente, monitoriamo la situazione e seguiamo con grande attenzione, d'intesa con il prefetto di Napoli, le vicende che sono accadute. Prime condanne per il genocidio in Ruanda. Il Tribunale Penale Internazionale ha deciso una pena di 20 anni di carcere per il cognato dell'ex presidente Abiy Harimana, riconosciuto colpevole di genocidio e sterminio nel 94, ergastolo per il colonnello Bagosora. Slitta di 6 mesi la class action, tutto rinviato, ha deciso il Consiglio dei Ministri. Varati invece i regolamenti della riforma delle superiori, gli indirizzi di licei e tecnici scendono da 714 a 20. Un malore per la presidente di Confindustria M. Marcegaglia. Si è sentita male durante un convegno alla Farnesina. Dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, è stata trasferita all'ospedale Gemelli per accertamenti. Potrebbe avvenire in giornata il trasferimento dalla clinica di Lecco ad Udine di Eluana Englaro. La donna di 17 anni in stato vegetativo sarà assistita da volontari esterni alla clinica. Secondo il sostituto procuratore generale dell'Alta Corte, Marcello Matera, l'atto di indirizzo emanato dal ministro del welfare Sacconi non può fermare la sentenza. È sempre sbagliato togliere la vita, le parole intanto del Papa oggi. E torniamo ancora una volta a Napoli per farvi ascoltare ancora un brano delle intercettazioni dell'inchiesta napoletana. Il giorno in questo caso è il 23 marzo 2007. I protagonisti sono il vicepresidente dei deputati del PDL Italo Bocchino e ancora Alfredo Romeo, imprenditore napoletano al centro dell'inchiesta. Italo Bocchino telefona a Romeo, questi gli chiede di risolvere un problema relativo a un emendamento del consigliere di AN al comune di Napoli, Marco Nonno, che escluderebbe lo stesso Romeo da altri appalti. E sentite cosa si dicono. Alfredo, sono Italo. Come sta, Italo? Bene, tu, amico mio? Tutto bene, grazie. Senti, avevo sentito che questo nonno voleva fare un emendamento nel dire che chi era già concessionario non può prendere la seconda concessione. Provocazione. Ma non credo proprio. A parte che giuridicamente non è possibile, ma è brutto come cosa, insomma. Non credo proprio, ma me la vedo io, non ti preoccupare. Ok, solo per informarti, ciao. Ciao, ciao. E altri stralci, vi ricordo, li trovate sul sito del Sole 24 Ore, www.sole24ore.com. E ora, come anticipato, i dati economici di giornata con la disoccupazione. Per la prima volta dal 97 cala l'occupazione maschile, meno 0,2% nel terzo trimestre di quest'anno rispetto al precedente. A questo punto il tasso di disoccupazione va al 6,1%. I dati però indicano anche che aumenta l'offerta di lavoro da parte delle imprese. E allora Simone Spezia ha chiesto come interpretare questi dati a Mario Albissini, responsabile ricerca sull'occupazione proprio dell'Istat. Un mercato del lavoro che risente della fase ciclica negativa. Per il terzo trimestre consecutivo aumenta la disoccupazione, sia in termini di livello, cioè di numero degli disoccupati, sia in termini di tasso di disoccupazione. Dall'altra parte, il ritmo di crescita dell'occupazione rallenta in modo sostenuto. Siamo passati dall'1,4% del primo trimestre del 2008 all'1,2% del secondo trimestre del 2008 all'attuale 0,4%. E quindi la crescita degli occupati e la crescita dell'offerta non vanno interpretate in maniera eccessivamente positiva? No, direi proprio di no, nel senso che rispetto al recente passato tutte quante le indicazioni convergono nel dire che la crisi sta interessando anche il mercato del lavoro. E nonostante la crisi regge la ricchezza media delle famiglie italiane, grazie soprattutto al patrimonio immobiliare che resta stabile. Si impoverisce invece il portafoglio finanziario, meno 6% nei primi sei mesi del 2008, soprattutto a causa del calo dei corsi azionari. E quanto rileva la Banca d'Italia nel suo bollettino statistico sulla ricchezza delle famiglie italiane, dal quale emergono anche le forti disuguaglianze. Nel 2006 la metà più povera deteneva meno del 10% della ricchezza totale, mentre il 10% più ricco deteneva quasi la metà della ricchezza complessiva. Andiamo a Roma, perché questa mattina c'è stato un lieve malore per il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Paola Cavadi, che cosa è successo? Potrebbe essere in effetti stato un bicchiere d'acqua a provocare il lieve malore che ha costretto oggi il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia a lasciare la conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. Il numero uno degli industriali, dopo aver accusato il malessere, è stata immediatamente accompagnata al Policlinico Gemelli, che ha lasciato esattamente qualche minuto fa, mentre alla sede del Ministero sono arrivati i tecnici per svolgere i controlli del caso. I NAS stanno verificando se il liquido ingerito dal presidente Marcegaglia, contenuto in una caraffa, sia stato effettivamente la causa dell'accaduto. Un malore che non ha comunque avuto ulteriori conseguenze. Secondo i dottori che hanno svolto i primi accertamenti, lo stato di salute del presidente di Confindustria è buono. E sempre stamattina, durante la conferenza alla Farnesina, si è sentito male anche il vice segretario del Ministero, Carlo Maria Oliva, ma si esclude ogni legame tra i due episodi. Per Oliva si sarebbe trattato di una reazione a un vaccino. E da Roma per il momento è tutto. A voi la linea. Grazie dunque a Paola Cavadi. È tornato a casa intanto nella notte l'imprenditore Francesco Dipalo di Altamura, allontanatosi, ricordiamo, il 12 dicembre scorso da casa senza dare più notizie di sé. Me ne vado via per sempre con la mia famiglia, ha fatto sapere. Non sarò più deriso per le mie denunce, non saremo più io e i miei familiari costretti a subire non solo aggressioni dei criminali, ma anche le umiliazioni da parte di chi, come un magistrato, è arrivato a dire che sono mentalmente instabile. Parole dure contro i giudici, dunque, dall'imprenditore che, ricordiamo, aveva più volte denunciato episodi di estorsione. Buongiorno Giulia Crivelli. Buongiorno. Andiamo sui giornali stranieri. Un'altra immagine, i giornali stanno cercando anche di andare per immagini per descrivere le difficoltà della crisi economica internazionale, Giulia. Sì, anziché titolare calma piatta, il Financial Times intitola la sua pagina di analisi dead weight, cioè attesa morta, e c'è una foto a tutta pagina di navi in rada in un qualche porto al largo di qualche costa, e sostanzialmente appunto aspettano, sono navi container. Sotto alla foto c'è un'inchiesta molto interessante che spiega appunto come questo sia uno dei più forti indicatori della crisi. Queste navi container, che fino a pochi mesi fa facevano la spola soprattutto tra Cina e Europa, tra Cina e Stati Uniti, adesso nella migliore delle ipotesi possono stare in rada. Il traffico la Cina non è più, diciamo, la piattaforma produttiva del mondo, sappiamo anche la crisi è in Cina, anche la Cina è in crisi, perché appunto i consumi ovunque sono diminuiti e quindi non si sa più, nessuno ha più bisogno di tutta questa merce via container. Ti facciamo raccontare un'altra immagine, Giulia, questa volta però arriva dalla Germania. Non siamo gli unici a essere sepolti dalla neve, anche la Süddeutsche Zeitung, che come diceva Alessio sta usando sempre di più le immagini, ha questa fortissima foto molto di impatto sulla prima pagina, anche qui molto grande, è una macchina completamente sepolta dalla neve con un signore che cerca di vedere cosa è rimasto sotto questa neve della sua vettura. Poi è proprio solo una fotonotizia, in realtà poi l'analisi del Financial Times è dedicata alle misure, al patto di stabilità, europeo, che forse avrà delle, sotto la pressione di paesi come l'Italia, la Francia e altri paesi, subirà delle grandi modifiche. Sappiamo, i vincoli di bilancio potranno forse cadere, perché la spesa pubblica aumenterà per cercare, come sappiamo, di far ripartire l'economia. E alle 13:47 minuti ancora le notizie di oggi. Aumenta ancora la disoccupazione, il terzo aumento consecutivo, ora al 6,1%, per la prima volta dal 97 a calare l'occupazione maschile, ma i dati indicano anche che aumenta l'offerta di lavoro da parte delle imprese. Mario Albissini, responsabile ricerca sull'occupazione dell'Istat. Per il terzo trimestre consecutivo aumenta la disoccupazione, sia in termini di livello, cioè di numero dei disoccupati, sia in termini di tasso di disoccupazione. Dall'altra parte, il ritmo di crescita dell'occupazione rallenta in modo sostenuto. E va avanti l'inchiesta napoletana. Francesco Rutelli ieri sera in procura per rendere dichiarazioni spontanee, il suo nome compare in stralci di verbali. Questa mattina nel carcere di Poggioreale l'interrogatorio dell'imprenditore Romeo. Varati dal Consiglio dei Ministri i regolamenti attuativi della riforma delle scuole superiori, gli indirizzi di licei e tecnici scendono da 714 a 20. E slitta di 6 mesi la class action, tutto rinviato, ha deciso il Consiglio dei Ministri, cancellate anche 29.000 leggi inutili, come proposto dal ministro Calderoli, mantenerne una costa fino a 2.000 euro all'anno. Sarà intanto election day per amministrative ed europee in primavera, il ministro dell'Interno Maroni. Si voterà il sabato pomeriggio 6 giugno e la domenica tutto il giorno 7 giugno, sia per le elezioni amministrative che per le elezioni europee. Prime condanne per il genocidio in Ruanda. Il Tribunale Penale Internazionale ha condannato a 20 anni di carcere il cognato del presidente, riconosciuto colpevole di genocidio e sterminio di circa 1.500 Tutsi nell'aprile del 94. Tentato golpe, con questa accusa sono stati arrestati almeno 50 funzionari del Ministero dell'Interno iracheno. Secondo il New York Times sarebbero collegati al partito dell'ex leader Saddam. Dopo le grandi nevicate dei giorni scorsi, oggi al nord è tornato il sole e in montagna torna il pericolo valanghe. Ieri il capo della protezione civile Bertolaso ha minacciato di chiudere le valli in provincia di Torino e Cuneo, ma i sindaci non ci stanno, come Roberto Serra, primo cittadino di Cesana. È vero, c'è un pericolo generalizzato di valanghe, ma se uno va nei posti dove vengono le valanghe, in questo contesto secondo me i 2/3 degli impianti sono tranquillamente agibili e percorribili. Ed eccoci nuovamente con un altro, l'ultimo brano che vi proponiamo delle intercettazioni a Napoli. 3 maggio 2007 questa volta. La telefonata tra il solito imprenditore Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano al centro dell'inchiesta, e il deputato del PD, allora Margherita, Renzo Lusetti. Viene citato il consigliere di Stato Paolo Troiano, che però non risulta indagato, mentre il grande capo di cui parla Lusetti sarebbe, secondo gli inquirenti, Francesco Rutelli, che diceva ieri ha reso dichiarazioni spontanee, ma anche lui per ora non risulta indagato. Sentite. Pronto? Ti sei scordato di me? No, sto lavorando invece. Ti sei scordato proprio? No, sto lavorando per te. No, volevo sapere quella cosa lì, quella di Troia lì, che cosa ti aveva detto, se ci avevi parlato. A quale cosa di Troia? Troiano. A quale Troiano? Eh? Quale Troiano? No, non c'è. Quale Troiano? Quello della giustizia amministrativa, là. Oh, no, quello sta... Capito, però domani mattina... Sì. C'è un incontro operativo alle 8. Ah. Direttamente col grande capo e parliamo di tutto, capito? Ah, come, grande capo? Esatto, c'è anche Troiano, su tutto. Ah, perché se chiama il grande capo mi risolve il problema. Sì, lo so, stai tranquillo. Me lo farebbe? Sì, operativo alle 8, domani mattina, capito? Ma lui lo farebbe per me questa cosa? Ma certo che lo farebbe. Perché quella è una questione di vita o di morte là, eh? Lo so, stai tranquillo. Questi dunque gli stralci delle intercettazioni dell'inchiesta di Napoli. E adesso, come anticipato, le condanne per il genocidio in Ruanda, una sentenza che il mondo attendeva. Nel giugno del 2001 il generale Zigiranyi Raso viene arrestato all'aeroporto di Bruxelles. Era ricercato dal Tribunale Internazionale per Genocidio e Sterminio. è il cognato dell'allora presidente ruandese Habyarimana. Gli uomini che articolarono e gestirono prima una feroce campagna radiofonica e dei media contro i Tutsi, che poi si trasformò in sterminio di 800.000 tra Tutsi e Hutu moderati. Zigirani Raso aiutò anche fisicamente e incoraggiò il massacro di circa 1.500 Tutsi l'8 aprile del 94 sulla collina di Kesho. Fu lui a far uccidere 20 persone davanti a casa sua. Per lui, il procuratore capo del Tribunale Internazionale di Giustizia di Arusha aveva chiesto l'ergastolo, ma gli sono stati dati solo 20 anni di carcere, cioè il resto dei suoi giorni, visto che ha ormai 70 anni. Oggi il tribunale deciderà anche su 4 ufficiali dell'esercito ruandese, tra cui il colonnello Bagosora, anche lui accusato d'essere una delle menti del genocidio. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E arresti in Iraq, in manette, come sentivate nei nostri titoli, decine di funzionari ministeriali, ma qui non si parla di tangenti, stavano progettando un golpe. Grande clamore sui media arabi alla notizia dell'arresto di decine di alti funzionari del Ministero degli Interni iracheno che, secondo gli inquirenti, stavano progettando un golpe per rovesciare il governo di al-Maliki. Tra gli arrestati ci sarebbero 4 generali guidati addirittura dal capo della sicurezza dello stesso ministero. Secondo fonti del governo di Baghdad, le persone fermate sono legate al partito al-Aud, che in iracheno vuol dire il ritorno. Si tratta di un gruppo clandestino che tenta di far tornare al potere il partito Baas. Al-Aud ha fatto la sua comparsa 3 mesi dopo la caduta di Baghdad nell'aprile del 2003. Per molti l'organizzazione è diretta da ex guardie repubblicane e da elementi dei servizi segreti di Saddam Hussein. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E continuano ad arrivare notizie dal Consiglio dei Ministri, nuove decisioni. Questa riguarda il canone della RAI, che per il 2009 sarà di 107,5 euro. Chissà quanti si saranno accorti che c'è una differenza, perché c'è un piccolo aumento, piccolo, però insomma un euro e mezzo. L'aumento rispetto all'anno scorso è l'aumento che segue l'andamento dell'inflazione programmata. Nuovo appuntamento ora per noi con la spedizione Oltre, che punta allo stretto di Bering in fuoristrada tra l'oceano Artico e la Siberia. Raggiungiamo il capo spedizione Peter Johansen a Oslo, capitale norvegese e anche dei grandi esploratori artici. Buongiorno, è da qui che tutto nasce. Noi trasformiamo Oslo dalla capitale della Norvegia, la nostra capitale, la capitale delle spedizioni artiche norvegesi. È da qui che partì Nansen, è da qui che è partito Roald Amundsen il famoso 16 giugno del 1918. È da qui che noi partiamo qualche giorno dopo, 90 anni dopo Amundsen. Siamo a Oslo, siamo pronti a riprendere il nostro percorso, stiamo rielaborando i nostri veicoli per prepararli alla missione artica. Noi abbiamo per esempio chiodato le gomme, ne abbiamo sostituito tutti gli oli e tutti i liquidi che adesso sono polarizzati, abbiamo tutto quello che dobbiamo avere, il riscaldamento nelle tende che funziona, tutto quello che dobbiamo calibrare ormai lo stiamo concludendo. Oslo oggi è mite, siamo un paio di gradi sopra zero, è grigio, però da adesso in poi le cose si faranno serie. E lasciando Oslo dobbiamo raggiungere Capo Nord, per un terzo passiamo su per le montagne norvegesi, poi passiamo al confine della Svezia e poi per 2/3 abbiamo il percorso della strada polare che ci porta a Capo Nord, che pensiamo di raggiungere in 3-4 giorni. Buon viaggio a voi! Poi seguendo noi su Il Sole va Oltre, grazie per il collegamento. E vi ricordiamo che questa, per gli amanti dell'avventura, è proprio un'esperienza multimediale, perché potete vedere la spedizione e scriverle attraverso i nostri siti radio24.it e ilsole24ore.com. E prima di chiudere, per noi il momento del riepilogo delle notizie di oggi. Sale ancora la disoccupazione, il terzo aumento consecutivo, ora è al 6,1%. Per la prima volta a calare è l'occupazione maschile. Intanto tiene il risparmio delle famiglie italiane, ma cala il portafoglio a disposizione, lo dice Banca Italia. L'imprenditore Romeo davanti ai giudici napoletani, ieri sera le dichiarazioni spontanee di Francesco Rutelli, il comune non sarà commissariato, dice il governo. varati dal Consiglio dei Ministri i decreti attuativi della riforma delle scuole superiori. Gli indirizzi di licei e tecnici scendono da 714 a 20. Cancellate anche 29.000 leggi inutili, mantenerne una costa fino a 2.000 euro all'anno. Partirà a luglio invece la class action, tutto rinviato di 6 mesi. Prime condanne per il genocidio in Ruanda. Il Tribunale Penale Internazionale ha riconosciuto i colpevoli per lo sterminio di 1.500 Tutsi nell'aprile del 94. Sotto indagine anche il presidente del Siena Calcio per evasione. Sequestrato il teatro romano Ambra Iovinelli. GR Extra Large è tutto per questa edizione. Alessio Maurizi in studio insieme ad Anna Migliorati, come sempre in questi giorni, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Extra Large, @radio24.it, come sempre se volete scriverci, e naturalmente tutti gli aggiornamenti di GR24 tornano alle 15. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.